milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, qui è un massacro. È rimasto lì a godere fino a quando non ha ficcato il pallone nella porta sguarnita, quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati di Carlo Genta. Vuol dire che il pubblico di Verona ogni volta che vengo a giocare qua mi fa sempre più schifo, veramente, perché sono inaccettabile questo pubblico. Quando uno mi prende in giro, a me non mi va bene. Siccome quell'altro faceva il furbo, a me non andava bene e io devo andare via. Lei può convincere una moglie con i soldi a rimanere, ma se quella moglie ha deciso di scopare con qualcun altro, scopa con qualcun altro. Se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo. Ciao a tutti, Giorgio De Luca, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, Armata Brancaleone. Perché? Perché partiamo per ultimi in ordine di tempo in Europa. Però mentre altrove è una festa popolare, da noi è la partenza per una guerra santa, per una crociata semiseria, se non, quando non comica, perché semiserio quando non comico è questo paese, forse. 800 24 00 24. Dell'inizio di questa crociata abbiamo insomma galleria di personaggi d'antan, no? Dichiarazioni pescate nel nostro passato, che è sempre presente, anche perché domani prima curva subito viscidissima, Balotelli a Verona, e Tosi ha già ricominciato da dove aveva finito il 6 gennaio 2010, quasi 4 anni fa. In qualunque altro posto una un'era sportiva lunghissima, da noi sembra sia successo ieri tutto questo casino, pronto a ripetersi naturalmente. Allora, oggi ne parliamo, oltre che con voi che siete convocati ogni giorno, con chi vi racconterà questo campionato, a cominciare da Giovanni Capuano, qui vicino a me, che sarà il titolare del campo domenicale 17-19 su Radio 24. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. E poi chi ve la racconterà televisivamente, un altro amico, Massimo Callegari da Mediaset Premium. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Hai messo l'elmetto? Hai preso lo spadone? No, è presto, all'inizio saranno tutti buoni, come sempre, come no, sì, come no. Sì, all'inizio sì, poi dopo la metà settembre ricomincia la rumba. Sì, anche perché ricordo due giornate, poi sosta per la nazionale, solito COVID interrotto per iniziare la stagione, ma a questo siamo ormai abituati. Tu Giovanni hai messo il mantello di maglia metallica? Non saranno tranquilli neanche domani, secondo me. Caro Massimo, dimentichi Galliani a Cesena, che se la prese con Braschi, era la prima giornata. Conte che se la prese con gli arbitri 2 anni fa, ed era la prima giornata, la Juventus aveva vinto 4-1. Figuriamoci avesse perso. Sì dai, con l'elmetto. Però noi siamo fortunati perché noi ci divertiamo. Sì. Dai, non ce li hanno mica gli altri, quelli così. No, noi ci divertiamo, proviamo a farlo. Intanto i primi dispacci del palazzo della crociata dice: Nicchi, capo degli arbitri, sarà un anno difficile, basta proteste. Questa la sentiamo tutti gli anni, chiunque sia il capo degli arbitri. Sì, e anche basta simulazioni. Io sono curioso anche in questo, ad esempio, di aspettare Balotelli già da domani a Verona. Io lo dico così mi faccio degli amici a casa. Sì. Ad esempio della bella partita che ha fatto Balotelli ad Eindhoven, io ho trovato assolutamente irritante questo continuo buttarsi per terra, simulare, ingigantire interventi che erano normali. Mi piacerebbe che il ragazzo maturasse da questo punto di vista, anche perché ha 23 anni e qualche giorno, non è più un bambino. Dobbiamo anche smettere di considerando un ragazzino. Ah, sicuro, è un giocatore ormai fatto, che dovrebbe essere ormai maturo, no? Perché normalmente accade così. Sarà lui il protagonista di questa prima giornata, Massimo, telecamere puntate su di lui? Sì, credo di sì, non so se sarà mai profeta in patria, perché all'estero lo adorano, ha conquistato copertine di magazine prestigiosissimi a livello mondiale, Sports Illustrated, il Time. Evidentemente all'estero è più apprezzato come personaggio, seguono meno la sua quotidianità, danno meno peso alle sue manifestazioni di protagonismo fuori dal campo e apprezzano di più la sua capacità di essere così magnetico con tutti i suoi comportamenti nei confronti di compagni, avversari, tifosi, allenatori e sponsor. Questo è il suo destino, credo che abbia un talento magnifico che sia in grado di indirizzarlo un po'. Certo, non sarà mai un giocatore che riuscirà a governare il suo istinto e la sua volontà di essere protagonista in ogni momento. Quando non riesce a esserlo completamente dal punto di vista tecnico, allora eccede in atteggiamenti extra tecnici che sono quelli che gli vengono più contestati. Cioè, ne abbiamo parlato a lungo, forse anche troppo, nel corso della settimana. Si è detto Balotelli è uno che deve vivere la partita in questo modo. È chiaro che rappresenta un limite, che è un segno di debolezza, questo continuo prendersela con arbitri, avversari e pubblico soprattutto, rischiando ogni volta i cartellini. Anche Ibrahimovic vive le partite più o meno in questa maniera, ma è molto più furbo nel gestire anche la sua rabbia agonistica. Ragazzi, intanto, mentre aspettiamo di fare la griglia di partenza, perché lo fanno tutti in questi giorni, griglia di cartapesta, secondo me è un giochino abbastanza stucchevole, però magari gli ascoltatori vogliono dire la loro anche su questo tema. 800 24 00 24, prima di parlare di uno dei... Oggi si decide il ricorso della Lazio sulla chiusura della curva, e per questo dico, da noi è la partenza di una crociata semiseria, mentre altrove una festa popolare. A proposito di simulazioni, poi mi viene in mente un episodio, la simulazione ad esempio dello scorso weekend di Fernando Torres sul gol, la punizione che ha portato al gol di Lampard. Non, ovviamente in Inghilterra non se la ricorda più nessuno, né i tifosi del Chelsea né quegli avversari. Qui in Italia ne avremmo parlato due mesi, ma comunque, en passant, proviamo a fare i bravi e raccontiamo i vostri programmi. Giovanni, come parlerai della Domenica dello Sport qui alla radio? Noi cercheremo di raccontarvi subito dopo la fine delle partite, perché noi iniziamo alle 17 in queste prime due domeniche. Ovviamente il calcio è alla sera, la domenica, però noi cercheremo di raccontarvi quello che è successo, facendovi sentire da subito le voci, cercando di capire quali sono i temi, anche le polemiche, cercando anche di raccontarvela in maniera un po' poco convenzionale, cercando di trasmettere qualcosa, di far parlare tanto la gente da casa. Avremo i microfoni aperti, ci sarà la possibilità per tutti di interagire con noi, di farlo attraverso i social network, di farlo anche con i nostri ospiti, e poi cercheremo di avere sempre anche qualche protagonista diretto con noi, allenatori, giocatori, dirigenti. Insomma, saranno due ore non banali, parleremo anche di altro, non solo di calcio. Certo. Massimo Callegari invece, Mediaset Premium, quali novità? Beh, novità che saremo pronti addirittura la domenica, quando il campionato poi entrerà nel suo regime tradizionale con le gare del pomeriggio. Già dalle 19:30 seguiremo l'attesa per i posticipi che saranno nel corso della stagione, chiaramente spesso le gare più importanti del weekend. Per queste due settimane inizieremo alle 17 sia domani con Michele Calcagno, che seguirà gli anticipi del sabato sino alla chiusura naturalmente della serata, e poi domenica con me in studio ci saranno Leo Reali, Roberto Rambaudi, Pistocchi, Papareste, e naturalmente poi si alterneranno con gli altri nostri opinionisti, Riccardo Ferri, Roberto Bettega, Giovanni Galli, Arrigo Sacchi, con la volontà naturalmente di esprimere i propri pareri, le proprie opinioni. Credo che si possa avere opinioni diverse senza che questo significhi voler far polemica, e ci si possa confrontare anche con allenatori e giocatori in maniera a volte vivace, senza trascendere o senza che loro si sentano messi sotto pressione o nell'occhio del ciclone in maniera non corretta, insomma senza prostituzione intellettuale, come diceva un quanto, caro amico, no? Quanto ci manca, quanto ci manca, io lo dico tutte le volte. A lei... bene l'altra sera, di lusso gli è andato, con l'aiutino, con l'aiuto, ha piantato la prima banderia dal suo ritorno. Ivanovic che si è salvato dall'espulsione e poi è andato a segnare in fuorigioco. Trionfo per Mourinho. Ovviamente tutti avete capito di chi stiamo parlando. Ci mancherà, c'è qualche personaggio nuovo, mentre subito nel clima campionato notizia Allegri che sta parlando ora in conferenza stampa, recupera De Jong, Boateng out per il Milan domani a Verona. Non sì, so però Carlo, secondo me Allegri ci ha appena dato la prima notizia della prima giornata. Ha detto che la sua squadra è ideale per il 4-3-3. Di cosa abbiamo parlato per tutta l'estate? Il trequartista, il diktat di Berlusconi, il Milan che cambiava pelle, la carta dei diritti, dei doveri dell'allenatore nei confronti della società. Lui ha detto che questa squadra giocherà con il 4-3-3 e vediamo quando Berlusconi si presenta la prima volta a San Siro se davvero gli va bene. Sì, vediamo, poi ci vogliono 4-3-3, ma io sai, diffido delle dichiarazioni di intenti e dei moduli. Al Milan mancano evidentemente un difensore di altissimo livello. Intanto si continua a parlare del possibile arrivo di Matri o di Honda, che è un giocatore che non sposta una virgola, secondo me, nel campionato italiano. Poi 4-3-3, insomma, uno è Balotelli, l'altro è El Shaarawy, se il terzo è Boateng, il Milan non è messo benissimo, questo a mio parere. Facciamo la griglia, dai ragazzi, fatela voi che a me scappa da ridere. Massimo. Ma mi sembra che sia al momento abbastanza scontata, con la Juventus davanti e il Napoli come unica rivale credibile in questo momento, con due incognite che sono il tempo a disposizione di Benitez per ridare un'identità diversa secondo i suoi principi di calcio alla squadra, diversa rispetto a quella che gli ha dato Mazzarri per 4 anni, e poi a seguire la Fiorentina e il Milan appaiate, e le altre con l'Inter e le due romane che sono incognite, possono essere grandissime sorprese, soprattutto l'Inter e la Roma possono andare incontro a fallimenti clamorosi considerando la pressione che c'è nelle rispettive piazze, e Lazio, Fiorentina e Napoli dovranno essere molto brave a gestire in maniera adeguata una pressione diversa rispetto agli anni scorsi, perché c'è più attenzione, ci sono più aspettative, più attese, e il salto di qualità da 6 a 8 o da 8 a 8 e mezzo è non semplice, ma si può fare. Da 8 e mezzo a 9 o a 9 e mezzo è la parte più dura, e i tre allenatori devono essere attrezzati. In questo caso Petkovic è partito malissimo. Sì, non benissimo Petkovic, non benissimo. 800-24-0024, adesso aspetto voi, ma prima Giovanni Capuano, la tua griglia. Napoli da scudetto, Juve un passo indietro, mi ricrederò soltanto se a metà ottobre, con quel po' di calendario, Conte sarà capace di traghettare la sua prima Juventus, che deve cercare il terzo titolo in testa alla classifica, ma non credo. Milan in Champions, Fiorentina le due romane in Europa League, l'Inter ci sono un sacco di sé. Certo, se nelle prossime 2 settimane si chiarisse la questione societaria, se Mazzarri avesse un esterno e magari un attaccante, se potesse fare metà di quello che è in testa, allora magari potremmo riparlarne, però in questo momento io non vedo l'Inter dentro le prime 6. Allora la mia, per quel che può valere, prima fila Juventus e Juventus, solo lei sulle due pit lane iniziali, poi seconda fila Napoli e Milan in quest'ordine ovviamente, terza Fiorentina e Roma, quarta Inter e Lazio. 800-24-0024, chissà qual è la vostra. Dunque, ci fermiamo adesso per il traffico mentre aspettiamo gli ascoltatori, poi parliamo anche, insomma, io lo so che oggi dovremmo affondare le mani nella spazzatura, nel tema che accompagna questo inizio di campionato, perché domani Verona, Balotelli, Tosi che è ripartito dal 6 gennaio 2010, e non sarà un clima facile quello di domani a Verona. C'è già Abete che ha detto la sfida di questa stagione sarà la lotta al razzismo. Spero che sia così, spero che sia una battaglia condotta in punta di diritto. La mia perplessità è che si finirà per sì, il rischio è quello di regalare con questa normativa molto rigida un altro strumento di pressione alle tifoserie nei confronti dei club. L'argomento è in questo caso molto serio. Ci fermiamo per il traffico. Io per Carlo Genta sono disposto a qualunque cosa, come dice Benigni, mi metterei in nudo. Tutti convocati. Allora vi leggo la griglia di partenza di Marco. È questa: salamella, salsiccia, cosce di pollo disossate e poi manzo e filetto di maiale perché sono più sottili. 800240024, numero verde. Allora, volti nuovi di questo campionato, insomma, tutto sommato ci siamo divertiti sul mercato estivo, abbiamo un po' gonfiato il petto, sono arrivati, insomma, non ho più voglia di parlare di top players, sono arrivati giocatori molto famosi, facciamo così, tutti attaccanti, Tevez, Higuain, Mario Gomez, tra un po' ne arriva un altro dall'Indonesia, si chiama Tohir, magari anche lui potrebbe essere un volto nuovo interessante. Ne vedete qualcun altro? E può essere giornalisticamente interessante il nuovo allenatore della Roma che già si è trovato precipitato in mezzo a un discreto casino, Giovanni? Può essere interessante vedere come lavorerà, perché la Roma è un progetto interessante, e anche questa parola progetto potremmo serenamente metterla nel cassetto e chiuderla lì, però in questo momento, oggi che siamo al 23 agosto, si trova ad essere passato da Lamela Osvaldo Totti a Gervinho, Totti e Florenzi con destro sempre i box. Mi sembra che i presupposti non siano buoni, anche se è vero che secondo me la Roma ha messo a segno insieme ad Higuain e Gomez il colpo più importante di questa estate degli italiani, che è Strootman, sì, che è un giocatore assolutamente dominante a centrocampo, forte, che farà fare il salto di qualità alla Roma e che va a completare un reparto nella quale l'unico è, secondo me, la Roma è a livello dello scudetto, diciamo, è a livello della Juventus, è a livello delle prime, peccato per quello che arriva davanti, però lo abbiamo letto, anche lì ci sono esigenze di bilancio, di taglio di monte stipendi, tutte quelle cose che abbiamo imparato negli ultimi due o tre anni a conoscere, non solo per la Roma, basti vedere la parabola dell'Inter. Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina dietro il vuoto secondo Massimo. Secondo un altro ascoltatore sono anni che facciamo l'elenco delle migliori, mai che ci sia l'Udinese che poi ci frega sempre meravigliosamente. Non so quest'anno, però non so quest'anno, mi sembra così un Udinese un po' ridimensionata, perché nemmeno, anche se me lo auguro, nemmeno Di Natale è eterno, perché i cicli finiscono e secondo me quello di Guidolin potrebbe sulla panchina Udinese potrebbe essere chiuso, già ci sono state avvisaglie nella scorsa stagione, insomma questo lo scopriamo. Massimo Callegari, con chi sei curioso di parlare nei dopo partita? Nei dopo partita, beh, io sì, vorrei parlare tanto con Carlitos Tevez, ma non so quante occasioni avremo, perché sarà molto ambito, poi non è uno di tante parole, però credo che sia il vero grande personaggio che arriva nel nostro campionato, perché è un argentino che si è conquistato l'amore dei brasiliani quando è nato a Corinthians, degli inglesi che con gli argentini hanno sempre avuto qualche problema ideologici notevoli, quando è andato a West Ham e soprattutto a Manchester, è un personaggio di cuore, talento, di personalità, e quindi è la vera attrazione, non solo tecnica. Credo che dal punto di vista tecnico Llorente sia un giocatore molto sottovalutato, perché arriva da un anno in cui ha giocato pochissimo, perché avrà bisogno di molto tempo anche per come è strutturato fisicamente per essere al top, però per il tipo di gioco che ha la Juventus è un giocatore che può diventare quello del salto di qualità, perché tutti continuiamo a parlare di attaccante, di giocatore da 20 gol, però anche domenica la Juventus contro la Lazio ha segnato con un centrocampista, Pogba, con un laterale Lichtsteiner e con un difensore Chiellini, e Llorente, oltre a segnare al Bilbao, che è stato uno dei laboratori tattici più intriganti, anche se solo per un anno con Bielsa due anni fa, faceva proprio questo, cioè segnava e poi creava tantissimo anche per chi arrivava da dietro. Quindi se gli verrà dato tempo e sentirà la fiducia di tutti, potrebbe essere veramente il giocatore che dà quel salto di qualità ulteriore alla Juventus. Poi ci sono anche altri giocatori che possono essere rivelazioni, che arrivano anche dalla Serie B, però questo è tutto da vedere. Zaza è una curiosità, ma gioca nel Sassuolo e quindi sì, non dipenderà solo da lui. Nico Lopez all'Udinese potrebbe fare quello che a Roma si è solo intravisto, però insomma parliamo di prospettive, ecco, non di situazioni, sì, immediate. Sì, secondo me ad esempio sarà più interessante verificare l'impatto di due che già hanno fatto vedere che cosa valgono, ma quest'anno dovranno farlo con maggior continuità, che sono Muri e le Insigne. Ad esempio a me l'estate di Insigne ha fatto impazzire, credo che a giugno non fosse considerato un titolare in prospettiva per il Napoli di Benitez, non so Carlo se Benitez potrà permettersi di tenere fuori Insigne da questo Napoli. Ma c'è anche Martens da verificare, eh? Appunto. Vediamo quale sarà la coppia a sostegno di Higuain, ma mi sembra che il materiale sia eccellente. C'è un altro giocatore che abbiamo visto ieri sera, che può esplodere definitivamente. Sono d'accordo con Roberto Dabelluno che scrive: c'è qualcuno che non ha capito, e sono juventino, quanto sia forte Cuadrado. Il prossimo anno costerà 50 milioni e andrà a Paris Saint-Germain. Poi c'è Luca che scrive: grande Tosi, siamo tutti con te, ha detto cose giustissime, fatene una ragione Carlo. Allora ragazzi, facciamo un salto in avanti a domani ore 18, Verona-Milan, cosa succede in quello stadio, Massimo? Io? Sì, tu. Ma succede che l'accoglienza sarà pesante dal punto di vista così ambientale per Balotelli. Io credo che se lui riuscirà a mantenere equilibrio e serenità nei suoi atteggiamenti, sarà neutro, le cose rimarranno in quell'ambito e tutto quello che eventualmente accadrà non sarà imputabile a lui in nessun modo. Quindi domani lui ha l'occasione di fare, come poi peraltro ha già fatto quando è andato lì con l'Inter, con il Chievo anni fa, e come ha fatto quando è tornato con il Milan, come ha fatto quando hanno sospeso Milan a Roma. Lui ha l'opportunità di far capire a Tosi e agli altri che non dipende da lui, e che se non lo fischiano solo ma gli riservano anche gli ululati, la responsabilità è di chi sta in tribuna, in curva, e non sua. Quindi per lui domani è una grande occasione. Prova di maturità richiesta a Mario Balotelli, hai ragione, la palla passa a lui dal punto di vista dell'atteggiamento. Massimo, ti ringrazio, buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon Ciao. Campionato. Buon Ciao. Campionato. Massimo Callegari, Giovanni, che succede domani a Verona? Guarda, io non lo so cosa succeda. In passato, quando c'è stata così tanta attenzione su una partita, mi ricordo anche le vicende legate ad esempio a Zorò e a Inter Messina, o ad alcuni momenti, alcuni passaggi della storia della curva della Lazio, poi non succede niente. Se per niente si intende il ripetersi di quell'atteggiamento che porta a una squalifica, ha portato alle polemiche, alle discussioni. Però detto questo, secondo me domani la differenza non la farà un fischio, un bu, una banana, un saltello o tutto quell'armamentario che conosciamo. Domani da questo punto di vista abbiamo già perso, perché si parlerà e si sta parlando soltanto quasi di questo, dimenticandosi di altro. Io credo che il pubblico di Verona non sarà così folle da andare incontro a una squalifica praticamente certa, anche perché il passaggio che è interessante è che quello che è accaduto in Supercoppa all'Olimpico ha chiarito a tutti, io spero, che sono cambiate le regole e quindi non esiste più salvezza per le società. Al primo bu razzista si chiude la curva, al secondo magari si chiude ancora la curva con 50.000 euro di multa, al terzo si chiude lo stadio, dal quarto in poi si comincia ad incidere sul risultato del campo e sulla classifica. Secondo me queste sono regole stupide nella loro rigidità, però queste sono le norme, e quindi io credo che ci sarà in questi giorni, in queste ore, un'opera di mediazione, anzi l'ha detto anche il questore di Verona, che ci sono stati incontri con i capi tifosi, quindi domani io credo non succederà niente, ma abbiamo già perso da questo punto di vista. Giovanni, provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, grazie Carlo, ciao. Prima convocazione per me. Ciao, ah, prima? Solo la prima? Sì. Poi prima, c'è Danilo prima, da Modena, prima. Fabio da Genova, Samuel da Bologna, questo è l'ordine dei convocati. Dimmi. Allora io volevo parlare a proposito dell'Udinese. Sì. C'è molta gente, molti appassionati di calcio che criticano l'Udinese, l'accusano di essere la squadra che abbassa i ranking in Italia. Lo trovo veramente una cosa senza senso, perché la Coppa, l'Europa League è un po' il problema di tutte le squadre italiane, è snobbata da tutte le squadre. Ecco, e quindi non andrei addosso all'Udinese, insomma, anche perché Guidolini in questi anni con sempre ricambi del 90% dei giocatori, ha sempre fatto cose egregie, insomma, ecco. Sì, non c'è dubbio, ma non vedo dove stia il nocciolo della polemica. L'Udinese fa la politica corretta, non credo che si possa imputare all'Udinese di abbassare il ranking, esatto. Il ranking UEFA. Sappiamo come l'Europa League sia bistrattata da tutte le italiane che vi partecipano. Esatto, è il vedere nei vari siti, nei vari blog, gli appassionati di calcio che dicono che l'Udinese deve vergognarsi, è quella che abbassa, che abbia da fastidio, ecco, sinceramente. Sì. Hai ragione, secondo me hai ragione. Sì, anche se quest'anno accadrà, perché a meno di miracoli l'Udinese sta fuori dall'Europa League e questo è un danno concreto per il ranking italiano, visto che vogliamo parlarne, perché ci costerà parecchi punti, più ancora di un'eventuale eliminazione del Milan, ad esempio, nel preliminare di Champions, che in realtà dal punto di vista del ranking UEFA non sposta assolutamente niente. Io però, Carlo, trovo che se l'Udinese sta fuori da questa Europa League è anche colpa della sfortuna, perché ieri sera è successo di tutto, fra pali e traverse, i giocatori dello Slovan hanno trovato l'incrocio dei pali tutte le volte che tiravano e lì davvero ti devi arrendere. Però ad esempio ricordo la superficialità con cui l'Udinese preparò il preliminare con l'Arsenal, con Guidolin che si permise di schierare un paio di ragazzi alle fasce perché disse: noi, questo è il momento della stagione in cui possiamo fare gli esperimenti. Ecco, ad esempio, quello fu un modo, secondo me, superficiale di affrontare la situazione. Ma probabilmente anche autolesionista, perché basti pensare alle questioni di grano, cioè la partecipazione alla... Sì, ma l'Udinese aveva già realizzato, l'Udinese realizza col mercato. Da questo punto di vista, l'Udinese ha una straordinaria politica aziendale dal punto di vista economico. Il calcio, se vuoi poi fare il salto per provare a vincere, è un'altra cosa, non è necessario fare plusvalenze per 30, 40, 50 milioni di euro tutte le estati, magari un paio d'estati puoi anche accontentarti di qualcosa meno ed investire sul prodotto, che è un po' quello che fa il Napoli, ad esempio, che pure è conti in ordine. Non stiamo parlando di società che buttano via centinaia di milioni di euro. No, stiamo parlando di società che fanno la politica corretta, quella che dovrebbe essere fatta da molti. Però il modello è il Napoli, Carlo, secondo me. Non anche secondo me, l'ho detto molte volte. Danilo da Modena, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda era sulla Roma. Volevo chiederle se secondo lei la Roma di quest'anno è più forte, perché secondo me dopo aver venduto Lamela, Osvaldo, e penso che si sia rinforzato, che Gervinho abbia il valore di Osvaldo o di Lamela, se secondo lei può fare meglio di l'anno scorso o no, e se molto sarà dovuto all'allenatore, che io sinceramente non lo conosco. Appunto, sarà una Roma diversa, se sarà più forte difficile dirlo in questo momento. L'altro giorno vedevo un grafico molto interessante, il progetto di 2 anni fa, no? Quello di Luis Enrique è stato totalmente smontato, tutti i giocatori arrivati con Luis Enrique sono praticamente andati via, quindi molto difficile dire quale possa essere questa Roma, anche perché, Giovanni, il progetto è stato cambiato 80 volte, no? Luis Enrique e poi licenziato Luis Enrique, poi doveva arrivare Montella, invece è arrivato Zeman. Sì, io credo che sia un falso problema, una falsa domanda se la Roma farà meglio o peggio dell'anno scorso. In parte vale anche per l'Inter il discorso, cioè quando tu esci da stagioni così negative, così contrassegnate da errori, mi viene in mente la quantità di gol che hanno preso sia Inter che Roma. Da un certo punto di valutazione è anche difficile fare peggio e quindi è facile fare meglio, però secondo me il problema è che in questo momento, oggi che siamo al 23 agosto, la Roma non ha fatto il salto per andare a competere con la Fiorentina e con il Milan, è ancora una fascia sotto, è nella fascia dell'Udinese, se vogliamo provare a banalizzare, magari dell'Inter, però ad esempio leggo che la Roma si sta inserendo su Matri. Ecco, ad esempio Matri secondo me è un attaccante che dove andrà sposterà gli equilibri, è l'attaccante perfetto per il Napoli, per fare il backup di Higuain, sì. Ma lo sarebbe anche da titolare secondo me per la Roma, perché da titolare Matri è un attaccante da 20 gol. Teoricamente poi bisogna vedere come gioca, decide di giocare Garcia, bisogna vedere che cosa sceglie di fare, che cosa vuole fare Francesco Totti in questa stagione, oltre a firmare un nuovo contratto. Ci fermiamo per la borsa, 800240024, subito dopo questa breve pausa tocca a Fabio e poi a Samuel. No, basta Carlo, gente, tutti con un ascolto, tutti convocati, perché deve andare a vedere i follow? Quanti follower hai? Se penso quello che dico, sai che cosa viene fuori? Tutti convocati. Vigilia di campionato 800240024 con me Giovanni Capuano che vi accompagnerà nella domenica calcistica italiana su Radio 24 17-19, questo l'orario. Fabio Genova, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, grazie per avermi convocato. Grazie a lei, dica. Volevo una domanda e una considerazione sull'Indo Inter, come l'ha battezzata ieri Leo Turrini. Leo Turrini. Sì. Allora, secondo me l'anno scorso l'Inter ha espresso la sua il suo valore di classifica era quello, non opposto, e quest'anno con il mercato che ha fatto, secondo me siamo risaliti di due posti al massimo. Di due posti, ma secondo me è una squadra comunque molto differente dall'anno scorso. È davvero una squadra rifondata in buona parte, anche se mantiene un certo legame con il passato, nelle bandiere che ancora ci sono, che siano ancora i box come Zanetti, che siano in campo come Cambiasso. Però io non sono d'accordo con quanto ha detto Leo Turrini ieri, da non tifoso interista, non, nell'ottica di questa politica. Poi siamo tutti in stand by in attesa dell'arrivo dell'Indo, no? di Toir, però in questa prospettiva secondo me sarebbe un po' antistorico, se mi permettete il parolone, riprendere Eto'o. Cioè si va con questa linea, gli attaccanti sono Belfodil e Icardi, due giocatori totalmente da scoprire, ovviamente c'è il vecchio Milito che prima o poi rientrerà, c'è Palacio che è un eccellente giocatore. È chiaro che non mi sembra un attacco devastante, però mi sembra un Inter certamente giovane, interessante, affamata e motivata, credo, come vuole Mazzarri. Giovanni? Sì, su Eto'o sarebbe un errore mortale per tanti motivi. Secondo me però è anche un errore mortale far finta di non sentire e non ricordarsi quello che disse Mazzarri a Pinzolo più o meno un mese e mezzo fa, quando già da aziendalista secondo me disse: ma no, la rosa va bene, questa squadra adesso la voglio conoscere, ma comunque sono soddisfatto, l'unica cosa che a me serve è un esterno. Ora, siccome la risposta non è Wallace, che ha 19 anni, viene in prestito dal Chelsea, ovviamente Mazzarri aveva in mente almeno lì un profilo differente, io ho l'impressione che fino al 3 settembre l'ambiente, Mazzarri, tutti avranno capito che bisogna aspettare questo passaggio di consegne in società, dopodiché si fa presto a scivolare, però nell'esordio che fu quello di Benitez, che arrivò, fece una diagnosi, chiese, mettendo anche sul tavolo alcuni nomi dei giocatori, non fu accontentato, poi i rapporti si rompono in un attimo. Questa Inter è un'Inter incompleta anche per quelli che possono essere in questo momento i suoi limiti. È una squadra che deve giocare sugli esterni, perché Mazzarri, se tu lo prendi, devi farlo giocare con gli esterni, e che in questo momento ha soltanto un vero esterno che è Nagatomo. Dimmi te se si può affrontare una stagione in questa maniera. Poi puoi anche scommettere su Icardi e Belfodil e non spendere soldi per Osvaldo, per Matri, per Eto'o, però ad esempio non puoi far finta di non aver sentito quello che ti è stato detto un mese e mezzo fa a Pinzolo. Il problema razzismo non è il problema Balotelli, ma della mancanza di cultura di quelle persone che vanno allo stadio e si comportano in un certo modo con persone dalla pelle diversa. Questo è sbagliato, non devo rispondere io, ma al limite un altro sindaco. Balotelli si sta comportando bene, ogni tanto ancora qualche gesto di stizza, ma penso sia molto migliorato e piano piano migliorerà ancora. Tutte queste parole sono di Massimiliano Allegri, ora in conferenza stampa. Samuel Bologna, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Il razzismo nello stadio, quello che è successo a Lazio, lo sapete tutti. Lei di dov'è? Lazio... Com'è? Lei di dov'è? Sono ligriano, ma cioè da 25 anni in giro. Uh-huh. E nulla. Lazio lo sappiamo da anni che sono messi così. Allora non possono pretendere che non è successo niente, è sempre così. Allora Verona abbiamo verificato anche anni fa che sono fatti anche così. È inutile che qualcuno prende contro Balotelli perché ha parlato così, e lui deve essere difeso perché è lui italiano. Sì, ma a prescindere però Samuel, a prescindere dal fatto che sia italiano o di un altro paese, questo insomma, Balotelli deve essere difeso. L'importante è che non si difenda da solo, con i gesti e i comportamenti. Scusi, non sto parlando del della nazionalità o no, però lui gioca nel nazionale italiano. Sì. Allora, se viene demonizzato, perché ogni errore che fa, nessuno lo difende. Ma se lo fa Di Piero, perché tutti pensano che lui moralisticamente è buono, ma stiamo parlando del talento. Sì, no, ma guardi che sono d'accordo. Cercano uno come lui da difendere. Sì, ma non è nemmeno questione di, cioè non bisognerebbe schierarsi nel collegio difensivo di questo o quel giocatore, non dovrebbe essercene bisogno. Io poi guardo al campo, mentre quello che accade fuori mi interessa relativamente, qualche volta mi diverte, qualche volta no, qualche volta è il caso di scherzarci sopra, qualche volta no. Sto parlando di quello che succede fuori dal campo, Balotelli è spesso protagonista di cronache di mille colori. Io guardo al campo e vedo un grande giocatore con degli elementi di debolezza, su tutti l'atteggiamento. Questo è il mio pensiero, non credo che ci sia bisogno di difendere Balotelli. No, ma anche perché si difende benissimo da solo e in questo momento ha un contesto tra l'altro che lo difende, perché questa è la parte secondo me risibile della vicenda: Balotelli, Boateng, Costante, tutti gli altri che siano diventati i simboli della lotta al razzismo. Io trovo questo aspetto poi un'ulteriore degenerazione. Dopodiché ha ragione questo Samuel, è abbastanza comico che questi siano diventati comico. I paladini della lotta al razzismo non esiste, cioè chi deve fare la lotta al razzismo il legislatore, in senso lato naturalmente, il giudice sportivo e le società stesse che dovrebbero provare a trasformare questo rapporto perverso con le tifoserie da controllate a controllanti, insomma. Carlo, io solidarizzo con la Lazio, l'abbiamo detto, le nuove norme sono troppo rigide e quindi espongono i club al ricatto delle curve, perché l'abbiamo visto già con la Supercoppa, non esiste più la gradualità della pena e questo porterà a dei problemi secondo me di gestione di questa stagione. Detto questo, però, noi non possiamo essere ciechi e non possiamo non dire che il rapporto tra le società e i gruppi ultras è incestuoso. La fotografia che è stata pubblicata su tutte le prime pagine dei giornali sportivi italiani dei giocatori della Roma a Capochino davanti alla curva 2 giorni fa, nell'Open Day, nella presentazione ufficiale della Rosa di Garcia all'Olimpico, secondo me è il simbolo della resa del calcio italiano alle curve, perché quella curva è la stessa curva che a maggio ha preso a sassate il pullman al ritorno a Trigoria dopo la finale di Coppa Italia, che ha reso un inferno l'inizio del ritiro sempre a Trigoria, costringendo le forze dell'ordine a mandare i blindati per consentire l'arrivo dei giocatori. Andatevi a rileggere le cronache di quei giorni, le asce, i picconi, i coltelli, le mazze, non è folklore. Quella foto è la resa ed è il simbolo del rapporto che c'è ancora, secondo me, incestuoso tra le società e le curve. Lo dice anche il Viminale, perché loro hanno ben presente che questo rapporto non si è interrotto. Ma questo rapporto incestuoso esiste da anni e appunto la mia preoccupazione è quella che sottolineo, cioè che questa normativa non diventi un ulteriore strumento di sottomissione delle società alle curve stesse. Sì. Ho paura che sia così. Perché... Sì, il problema però è che gli strumenti legislativi, quelli veri, da qualche anno ci sarebbero. Dai famosi decreti Pisanu, che ad esempio hanno istituito il posto nominale unico, e tra le pieghe della legge avevano detto che non esistevano più settori nel quale era possibile restare in piedi fuori dal proprio posto. Queste sono buffonate, non sono buffonate, demagogia. Abbiamo tanto aspettato lo stadio di proprietà dicendo che avrebbe risolto, così come è successo in Inghilterra, il problema della violenza all'interno degli stadi. Dopodiché arriva lo Juventus Stadium ha una curva che si comporta esattamente con le stesse regole, cioè con l'assenza di regole di tutti gli altri stadi italiani. Dimmi tu se questo non è il modo per girarsi dall'altra parte e far finta di affrontare l'argomento quando poi ti capita il Pro Patria Milan di turno il 3 gennaio e allora diventa di moda tornare a parlare di razzismo. Ma sì, ma poi il discorso è che è come la tessera del tifoso, sono tutti strumenti demagogici e inutili, perché il posto nominale negli stadi italiani non credo lo vedremo mai, così come qualcuno mi deve spiegare, al di là di ledere secondo me la privacy delle persone, che cosa ha risolto la tessera nominale. Achille Verona, buongiorno. La tessera del tifoso. Achille, buongiorno. Volevo fare questo intervento, la prego non lo prenda come una mera polemica, ma come spunto di riflessione. Sì. Allora, di Verona normalmente non si parla, mi faccio generalizzare, voi giornalisti non si parla a livello calcistico, però siete bravissimi ad attaccare. Prima per esempio il suo collega parlava degli attaccanti che saranno più significativi, hanno tirato fuori tutti, poi quelli che si confermeranno dalla B, Zaza, questo, quell'altro, per Dio, vanno tutti bene, però si sono dimenticati di un certo Daniele Caccia che è stato capocannoniere, ma così, giusto per dire. Dopo si parlava giustamente del razzismo, di questo, di quell'altro, e il suo collega ha detto una cosa, secondo me, abominevole dal punto di vista che a Balotelli si confermerà, lui non c'è motivo per cui venga attaccato, perché lui va, allora Balotelli è penso il provocatore numero uno in Italia, quindi sentirlo difendere come ma se succede qualcosa è tutta colpa della gente perché lui sarà, io aspettiamo intanto di vedere cosa succederà e soprattutto cosa non succederà, nel senso che si è parlato anche a livello di tifoseria organizzata e si è deciso di non assolutamente di non fare niente, ma tutto viene penso che la Gazzetta dello Sport abbia già due articoli già fatti, devo solo cambiare due particolari ma sono pronti all'invio. Come quel caso Morosini, questo altro, fatalità, non ero in trasferta quel giorno, l'ho guardata dalla televisione, assolutamente ci sarà stato un imbecille due che ha fatto un coro abominevole, può darsi, per Dio ci sarà stato, perché ma non si è sentito assolutamente niente, se tutti stavano zitti non si faceva male alla famiglia e non si faceva male a Verona, ecco. Quindi io la prego ogni tanto di parlare di Verona, del calcio di Verona, di una tifoseria che eravamo 10.000 abbonati in Serie C. Ma questo che, per carità, chi lo discute? Chi discute dell'attaccamento della tifoseria del Verona a Verona? Però io non riesco a dire sono uno o due imbecilli, è un gruppo ristretto, allora che i tifosi veri li isolino o che la società li isoli, poi... Le generalizzazioni sono sempre sbagliate, ma anche la normalizzazione è sbagliata. Non possiamo dire ma è normale che sia così, sono 10, sono 15, sono 20. Se sono 10, sono 15, sono 20, o sono 100, o sono 1000, allora proviamo a capire chi sono questi. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. Lo dice il vecchio saggio Strapattoni, lo diceva sempre, fino a che non dire gatto se non l'hai nel sacco, quindi... Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Gianni Capuano, vuoi rispondere all'ascoltatore di prima? Di Verona? Io credo ce l'avesse con Massimo Callegari, sì. La verità. Io l'ho detto, qualunque cosa succeda, o meglio non succeda, perché sono sicuro, e l'ho detto, che domani non succederà nulla a Verona, abbiamo comunque tutti perso. Trovo anche stucchevole che ci debba essere una riunione tra i rappresentanti delle tifoserie organizzate, la questura, la società, per decidere che non si dà del negro a Balotelli o a chiunque altro passi per Verona o per Roma o per Bergamo o per Milano o per dove volete voi. Io trovo tutto questo profondamente sbagliato, perché comunque significa continuare a dare una legittimazione a personaggi che sono conosciuti ma che poi si fa finta di non vedere, di non guardare. Guardate che ce ne sono tante di queste storie negli stadi italiani, ci sono capi ultra che gestiscono i parcheggi all'interno degli stadi concessi dalle società. C'è un rapporto, io l'ho definito incestuoso, che non riusciamo in nessun modo a rompere. Chi ci ha provato ha anche rischiato di suo, ci sono procure che hanno anche fatto delle inchieste, ci sono dirigenti che hanno girato per alcuni mesi, alcuni anni sotto scorta, ma voi vi rendete conto che nei mesi scorsi è stata organizzata una cerimonia di riappacificazione tra il Genoa e i suoi ultra con la restituzione della maglietta, e stiamo parlando di quella partita Genoa-Siena sospesa per la quale c'è gente sotto processo, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, questa me l'ero dimenticata, ecco, negli highlights c'è anche, del nostro c'è calcio, anche questo, ma questo seriamo, per dire che non succederà niente domani, ma abbiamo già perso, ma perché non riusciamo a fare questo scatto? Poi io contesto la rigidità delle regole di quest'anno, le regole federali, le regole che porteranno le chiusure delle curve, degli stadi, ma questo è un altro discorso. In realtà il concetto è che queste cose, che siano fatte da una, due, 10, 100 o 1000 persone, non devono accadere e basta. Allora, 800 24 00 24, numero verde, preparatevi col telefono, perché siamo qui domenica, Giovanni Capuano, ovviamente tutti convocati da lunedì a venerdì come sempre. Claudio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti, vi seguo sempre, siete grazie, bravissimi. Senti, una domanda proprio secca, senza il mio commento, ma il vostro commento mi interessa molto. Il Milan perché non compra un portiere? Ti ringrazio e saluto tutti quelli che mi conoscono. Grazie. a te Claudio. Un portiere, ma non mi sembra una priorità assoluta per il Milan. A me, secondo me, Abbiati è sufficientemente affidabile, non è il miglior portiere del mondo. L'altra sera ha fatto una papera che è costata molto cara al Milan, ma una papera all'interno di una di un'eccellente partita. Non mi sembra una priorità assoluta per il Milan un portiere. A te? No, assolutamente. Tu prova a immaginarti se Abbiati nel primo quarto d'ora Eindhoven non avesse fatto un paio di interventi di quelli importanti, quale sarebbe stato l'impatto del Milan su quella partita. Anche perché poi io ho letto commenti molto positivi, ad esempio della serata del Milan, che è stata una partita secondo me comunque giocata bene dal Milan, ha portato a casa il risultato che serviva, mette sul binario giusto la qualificazione alla Champions, che è il vero obiettivo stagionale da qui a Natale. Però diciamo la verità, 30 che entrano in cassa, dai. Diciamo la verità, se nei primi 10 minuti alcuni palloni fossero andati diversamente di qualche centimetro, ho l'impressione che avremmo parlato di una partita diversa. Abbiati ha molto merito nel fatto che non siano entrati, secondo me è ingeneroso. Ho letto alcune pagelle 5-5 e mezzo, le ho trovate assolutamente ingenerose. Ancora per un anno il Milan non ha la priorità del portiere, la verità è questa. Non, infatti ne parla Claudio, ha tutti i diritti di farlo, di porsi questo dubbio, ma mi sembra che non sia un dubbio che sta nella testa dei dirigenti di Via Turati. Well, now they gave him his orders at Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. It's Friday, guys. Venerdì, io no, non posso fare senza Dan Peterson. Ciao, coach. Ciao, Carlo. Comunque, un giorno, quando tu hai la mentalità e il tempo materiale, sì, io vengo lì e, con la mia chitarra e vi canto The Wreck of the Old 97, tutte le 4-5 strofe. Coach, tu lo sai che sei invitato ogni giorno, quindi devi solo deciderlo tu. Accorda, sì, la chitarra, io ti aspetto. Volevo scaricare tutto su di te, invece l'ho scaricato. Bravo, bravo. Ti ho rilanciato la palla. Senti, ma allora, chi vince il campionato di calcio? Così ti faccio subito fare il pronostico e siamo 2-0 per me. Ma, guarda, sulla carta e tutti dicono che la Juventus, però io dico che io sono un po' restivo a fare questo qui, perché vedo squadre che sono che stanno volando con le ali basse dentro, che sono Inter e Milan, che secondo me saranno molto pericolose. Milan, perché ha rinnovato Allegri, è una buona squadra fatta di giovani, c'è Balotelli eccetera. Inter, perché c'è Mazzari, che è un grande tecnico, che è dato nuovo entusiasmo, etica di lavoro, nuovi interessi, giocatori rinati. Quindi secondo me queste due grandissime squadre, guai a contare loro fuori. Poi Milan non partirà come l'anno scorso, Inter rimetterà le cose a posto, e poi c'è sempre una sorpresa, non so chi, potrebbe essere Napoli, che è stata veramente in realtà l'anno scorso, eccetera. Per il momento io sono come tutti, dico sulla carta è favorito Juventus, però la mia pronostico mi deve chiedere più avanti, facciamo dopo il primo gennaio il ripronostico. Va bene, ok, momento, andata. Ok, facciamo a maggio, facciamo ad aprile, coach. Però dico Juventus leggermente favorita adesso, però Milan Inter agguerritissimi. Anche se mi sembra, coach, che il calcio abbia una fluidità di svolgimento anche tra stagione e stagione diversa rispetto alla pallacanestro, ti sentivo parlare ad esempio e mi viene un parallelo, mi sembra che questa Juventus non possa essere quello che è stato ad esempio Siena per tanti anni per la pallacanestro italiana, anche se è una squadra meravigliosa che ha ancora margini di crescita, ha una società che vuole investire. Però io ho l'impressione che nel calcio sia più difficile mettere il sigillo se non in condizioni particolari. Sono convinto anche io, perché ci sono più giocatori in campo, il roster più grande, molti diversi, tanti affari, è tutto diverso e ovviamente ingrandito di mille cose nel calcio rispetto al basket. Okay? Nel basket tu hai 3-4 chiavi, elementi chiavi, tu puoi fare qualcosa. Calcio ci vogliono 6, 7, 8, 9, 10, più la superstella tipo Messi, tipo il giocatore che contro, più un grande allenatore, e poi ovviamente Conti, Mazzari, Allegri sono tre grandissimi tecnici, quindi Ovviamente bisogna avere tutti i pezzi insieme e poi bisogna avere fortuna, ok? Bisogna non avere l'infortunio chiave nel momento peggiore con le cose lì, ma hai ragione, è più difficile nel calcio. Senti, invece nazionale di basket che va verso l'europeo, allora siamo altalena di emozioni, avevamo una squadra che era abituata a non perdere mai, andiamo in Belgio a giocare quel torneo che tu hai raccontato ai microfoni di Sport Italia e le prendiamo secche da Belgio, Israele e Polonia, e arriva la conferma che anche Bargnani non ci sarà, siamo quasi disperati, Pianigiani che dice la Polonia è più forte di noi, tutte sono più forti di noi, che cosa succede adesso? Battiamo il Montenegro, ci torna un mezzo sorriso, allora coach, cosa andiamo a fare all'europeo? Ok, io dico, io sono, come dico sempre, cautamente ottimista, nel senso che in un girone dove ci sono passano tre squadre e l'Italia è la quarta secondo ranking FIBA di queste quattro squadre, queste europee, 24 squadre. Prima nella ranking è la Grecia, ottava è la Turchia, nona è la Russia, Italia undicesima. Queste sono nel girone dell'Italia. Quindi sulla carta queste sono tre squadre più favorite dell'Italia per passare, però ottavo, nono e l'Italia undicesimo, Turchia, Russia, eccetera. Italia apre con Russia, squadre in evoluzione, cambio allenatore, cambi giocatori, diverse altre cose, quindi è in subuglio lì assoluto, ok? Quindi il momento di sfiorare il colpo è gara numero uno contro la Turchia la prima serata del 4 settembre. Sì, anche se un po' mi sono preoccupato perché insomma alla prima sconfitta in Belgio ho pensato beh, questione di preparazione, poi ho visto una squadra no, con una mentalità sbagliata. Ci sono due tre, uno la preparazione, imbalati un po' lì perché mancavano i riflessi che generalmente questa squadra ha, perché se non altro è una squadra di lavoratori, di gente che lotta, che fa le cose. Lì in Belgio Belgio ha preso il triplo di rimbalzi in attacco, tanto per dire che l'Italia, questo vuol dire mancanza proprio di prontezza, di riflessi. Però la vittoria contro Montenegro, che è sempre una buona squadra, Bielik e compagnia, molto bella allenata, Pavicevic, e quindi è una squadra di tutto rispetto, l'Italia ha vinto ieri di 16 in campo neutro, quindi una buona vittoria, buon segno. Va bene, squadra piccola, però una squadra tosta. Sto con te nel campo del cauto ottimismo. Grazie, coach. Ciao ragazzi, ti abbraccio, ciao a tutti. Ti aspetto con la chitarra. Dunque, Giovanni, adesso giura Claire sulla settimana. Ti lascio la palla per domenica. Ci sarà anche Moto Mondiale Formula 1 domenica super. Sì, domenica super, l'ho detto, non parliamo soltanto di calcio, parliamo anche degli sport del motore, parliamo di pallacanestro, tra l'altro poi domenica prossima cercheremo di raccontarvi questa vigilia dell'europeo entrando proprio dentro la nazionale per cercare di tastare il polso. Io sono cautamente pessimista, posso esserlo, come no? Perché ci giochiamo tutto in una sera contro la Russia, ha ragione il coach, tradizionalmente non c'è mai andata benissimo quando spalle al muro così all'inizio. Però dai, l'appuntamento è domenica alle 17, dalle 17 alle 19 tutti convocati in formato weekend per raccontarvi tutta la domenica del calcio, dello sport, andiamo avanti fino a maggio. Grazie Giovanni Capuano, Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadone in regia, noi invece ci sentiamo lunedì, ciao. Questo Raikkonen è un autistico, uno straordinario, lo vedi anche negli sport che gli fanno fare, no? È meraviglioso, che dice, c'è il pescatore, non so se l'hai visto, no? Cosa fai qui? Holidays? Sei qui in vacanza? No. No. Business? Sei qui per affari? No. No. Friends? Sei qui per amore? No. No. Why are you so far away from home? Allora perché sei qui? E lui risponde, I have no idea. No? I have no idea. Non lo so.